capo di massa, capito? Metti che perché non esce bene. E a chi è che sta macchiando? Ma il mio. Ma il mio c'è un po' a traffico la strada. No, perché non tratti? Sta facendo bene. Ma chi è? Ho una strada. Ci sono intromessi qua. E quindi non lo senti a tratti, no? Si sono anche scattati, no? Capo, ma rifaccio. No, no, non esce a tratti, esce bene. Un'impressione, perché prima anche chiacchierando, ma che sembrava che uscivo a pezzettini, tipo, fanculo. Già li faccio, già li faccio. Lascia il canale libero per cortesia, non lo vedete che è occupato. E da chi? Da lui è occupato. Fai spostarci per cortesia. Dica, avete vedo un pochino se riesco a passare io questo deficiente, Natale. Sì, ma mi dica sta guardia con lo schiena qua. Lo passi e lo lati, ma anche Antonio lo stesso. Ma casino, cara, casino. Ci passiamo sopra, ma qui passiamo io un altro. Ma dica. Se a farti parlare, Natale. Avevo un attimo piano. Sì, vedrai, già gli passa la voglia, non c'è problema. E se no, con un altro, così al macro non li va a vedere al vivo. No, fa fatta Cinerone. Fallo scaldare, Natale. No, ma basta l'altro, io da Melone, mi agita. Che... A buffonetti, insomma. Qua. Avanti Antonio, io poco fa li ho beccati sul 20. Chiappa. Ma ci sono in coma che vogliamo immaturati, a morte il parame. Insomma, io quando sono in barra pesante uso il 5 e gli altri li lascio per le postazioni fisse. E questi si prendono il 5, il 7, l'1, il 20, e come poco fa, mi hai capito? E poi sono tutti di Cagliari. Tu non senti altro, Cazzo, che di gente di Cagliari entrando a rompere le palle nei canali che usiamo per le postazioni fisse. Basta sovramodularli, così vedrai che mollano subito. Vabbè, uno fa anche il gentile, però ce l'avamo già noi parlando, vedi, si sono intromessi, non va bene. Scappa, io li stavo già seguendo da poco fa e hanno cambiato diverse volte postazione, ma poi erano sui 20. E io sono stati qua sul 23, ma non vedo se in quanto gli convenga, dai. Giuseppe, come ti arrivo adesso? A bomboletta, a spray al massimo. Cappa che ha aumentato alla grande qua, passi a tutti, c'era Giustone da Giuseppe, Giuseppe ti dà mattana, non so dove sia, ora sei in barra pesante o sei a casa? E qui in postazione fissa in questo momento. Cappa, sei quasi a fondo scala qua. Cappa, dai, va bene, abbiamo fatto migliorie passo dopo passo, dai. Cappa, Giuseppe. Avanti Natalino. Cosa ne dici di questa modulazione adesso qua? Ma qui sta arrivando a fondo scala e come radio è buona qui è Natalino. Sì, posso anche aumentare la radio. No, lasciala così Natalì, perché poi vai a saturare troppo, così è bella. Già mi stai arrivando giù a fondo scala, così va benissimo. E sono tutto in discesa, per quello che ti arrivo così. Cappa di positivo, Natalì, le mie che ti arrivano sudate alla antenna, a chi dai noti e chiudi tutta una fata, cambio. Sta arrivando 9:20 qua, sei quasi saturo di quanto sei forte. Cappa, anda bene, dai, l'importante è sentirsi. Anto, fai un passaggio col tuo microfono che ti voglio sentire bene io qui nella mia postazione, dai, avanti. Vuoi essere provare. D'accordo, c'è. Anche 4 se ti serve per gente. Va benissimo, Anto. Qui ti sento forte e chiaro. Tu come lo confina, Natalino? Ci ha tratti. Forte e chiaro, qua. Ci siamo anche noi. dai, vediamo un pochino se riusciamo a modulare tranquilli, dai. Io penso di passare tranquillamente. Antonio passa tranquillo, avanti. Sul canale là, Giove. Assolutamente non ci sta problema, dai. Io per quanto mi riguarda, se voi mi sentite forte e chiaro, io posso anche continuare. Non c'è problema, direi, non c'è problema. Cosa volevo dire? Io poco fa, mentre stavo pranzando, ho sentito il buon Pomponio. Non so se sia ancora in modulazione. Pomponio, se ci sei, batti un corpo. Appena sei libero mi chiami e io scarico subito, capito? Non c'è problema per quella cosa lì. Ma ti fa parlare, faremo così, stanzi, capito? Senti, senti come mettono la portante, senti i ragazzini qua mettendo la portante. Neanche a Santeria siamo così. Grazie. quando tu pizzoni fa così. Adesso lo fa per forma. Eia, quando tu pizzoni. E tu non lo fa. E chiama la sorte nel suo io, però. temperatura? 6 gradi e 6, quasi 7 gradi ci sono fuori. Perché ho messo la sonda fuori del termometro, no? Ah, per l'acquario del termometro. E io ho messo la sonda fuori per misurare la temperatura di fuori. Freddo c'è, freddo c'è. Andiamo a vedere. A me ho... era una panguale, era, non ci fa. Cazzo lì. Che non ci puoi andare, no? Si va più con le leggi. Ciao, carissimo, lì. Un pelino mi stai strappando. Ciao, Giovanni. Buonasera, spagnolo. Non ho passato appena. Mi va bene, ti sto ascoltando. Ciao, proseguì, sei una schioppettata. Gara. Ma lo sai che in quello piccolino gli ho messo il turner più 2, qua? Io ti ascolto, va benissimo, non c'è problema. Gli ho fatto la prolunga e gli ho messo il turner più 2. Ti ho sentito, la tarifai alla grande, ottima radio, perfetta, non c'è problema. Molto piccolo, la simulinata la ventola di un coso, di un dello scaldino, cazzo, e di congelati la via altura. Ma si sente male, fastidioso, Va bene. Solo per un saluto così mitta. Ciao Tattari, ciao salve. Ciao qua. Ciao. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, sì. E sono le. Da poco sono la frutta io, baja il dai. E aspetta, quando vicino a letto mi metto il presidente Lincoln con l'MB più 4 che vediamo. Dammi il cellulare, andata lì. Guarda un po'. La 9.10 a 9.20 fanno i picchi. Aspetta un attimino. Yeah. così come si figura se non ti sentono dalle altre parti, specialmente quando c'è propagazione. Prego, no. Ci sono certe figure che tutti quanti cercano di parlare e quindi un po' di propaggio è che abbassano la pelle del capo. Attento San Vito. Attento sono. Buonasera Gianni. Buonasera anche a lei. Però mi sembra che in radio ti stanno sovramodulando, stanno, perché ti sento un po' cracchiato in radio. Boh, è strano, ti stanno sentendo bene ultimamente. Ah, a me. E questo è il problema, mi senti. Allora, vedi, guarda, ma sarà per il Viking Game ed è tutto il roccio. Ha diminuito, ma un po' c'è ancora. Kappa Kappa. E dove sei, sapete? Io a casa sono, tu sei santo della morte Gianni. Santo sono. E vabbè, non fa niente, sono vicino. No, no, no, tranquillo, come ti perfetto. No, che io ascolto bene, arriva 9.29, quasi 9.30 qua. Ma tu non stai ascoltando il santo, quando è quello più forte 9.30? Perché più è troppo vicino a te. Beh, non ascolto mai così, non ascolto troppo chiaro. Guarda adesso sapete come sto scendendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso ho già migliorato, ma già meglio. Oh, aspetta, ora se ti si stava scaricando le batterie del cuore. Cava, cava. No, ma così non va bene. No, così va già decisamente meglio, guarda. Olla. Così è la regolazione giusta? Così c'è anche di chi è l'antifico. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con lo spezzone. Devi mettere il vattimetro tra quell'affare e l'altro affare. E controllare lì. Prima di tararlo. Come detto, 1, 2, 3, 1, 3, sono la mia ferma. Quando è fatto male adesso, quando è tra le tre, sembra le ferme. Come andiamo? Perché... Ma purtroppo c'è... Ma sicuro, ma se che abbassi la potenza dell'apparecchio, guarda. Uno, due, tre, uno, due, tre, così bene va. Bene, migliora. Come abbassi migliora. Per confronti ancora più basso e ancora meglio. Dimmi una cosa, resistenza ce n'è lì dentro? Cambiare l'ingresso con l'affare. No, lei ci ha detto di no, che c'ha poi finale a Mosfet e quindi non si può fare una cosa cazzo di Zendi. Perché cosa va a controllare l'ingresso che deve essere per food? Vabbè, già lo parlo io a quello lì. Scusa un attimo, ho fatto che sto portando quel sottorecco, poi mi vanno fatti dall'apparecchio. Ma ah, perché cosa sto facendo, Salvi, secondo te? Mi sto dando dall'apparecchio 20 mW. Adesso ce l'hanno 20 mW dall'apparecchio. Ma paga. Alla gara. Ingresso, Via, via. Adesso santo, levate quell'affare lì. Ciao, prima di picchiare la TV. Adesso, comunque l'ho fatto un passaggio invece dei loro positivi. Ola, ola, ola, ola, così negativi sono. Scendi da 8 a 7, la fermata. Santiago 8 e Santiago 7. La fermata, chiuso il seguente, la fermata se non è 40. Cava, cava. Andate. Non lo so, ma tagli tu come mi siete con picchi negativi? No, negativo. Io ti sento 9.30 qua quasi. Perché l'ho guardato con la lente, arrivi 9.29 per l'esattezza. Però devo reggere almeno 5 watt, mi deve reggere, ma è puzza. C'è qualcosa che non sta andando bene lì. Sì, tutti i buoni disincubati sono visti due ripa proprio. Ma se mi siete di tu se ti lo tieni con 20 mW non va bene qualcosa. Evidentemente c'è qualcosa che non va bene lì. Aspetta, ero all'operato con 5 watt, guarda. Quali sono 5? Io ti sono. Ho provato a regolarlo, mi avete detto che andava bene, boh. adesso va bene. Ma se va bene così, io faccio così, se ho bisogno di capito? Sì, ma bisogna vedere come è. A chi... Se in quel vatti ti devi buttare per tutta di ingresso, ti devi accettare. E se c'è la resistenza dell'ingresso che è troppo bassa. Oppure vuole cambiare quel cleaner e metterglielo più grande. Ecco, bisogna che lo faccia vedere a Massimiliano, va. Magari lui le capisce di più. C'era l'altro giorno, non mi sono dimenticato di dirglielo. Oh,